verso il voto. Un saluto e benvenuti al Punto Politico. Alitalia, presenze televisive, voto utile continuano a tener banco in una giornata di campagna elettorale che ha visto Veltroni in giro per la Calabria e Berlusconi al Palazzo dei Congressi a Roma per una manifestazione dedicata alle donne. Allora partiamo dal Popolo della Libertà, Vincenzo Miglietta. Torna sul voto utile, avverte i suoi elettori attenti ai possibili brogli, ribadisce il no all'accordo Alitalia Air France. Incontrando le donne del Popolo della Libertà, Berlusconi fa il punto sulla campagna elettorale a poco più di 2 settimane dal voto. Prima di affrontare i nodi più delicati, il Cavaliere però non si lascia sfuggire l'ultima possibilità di diffondere i dati di un sondaggio. Il Popolo della Libertà, con il suo alleato la Lega al Nord e il Movimento per le Autonomie al Sud, ci dà questo sondaggio l'8,6% di vantaggio su Veltroni e sui suoi alleati. Nonostante il vantaggio, Berlusconi avverte è necessario che il voto non vada disperso verso le piccole formazioni che in ogni caso non riuscirebbero comunque a superare lo sbarramento. Il voto a queste formazioni, aggiunge, è come se fosse dato alla sinistra. Quindi i voti a questi partiti in Senato sono voti sicuramente bottati, sicuramente spesi a danno del centrodestra e del partito del Popolo della Libertà e in favore della sinistra, dove c'è il pericolo di un accordo tra il partito di Veltroni e la sinistra estrema, la sinistra arcobaleno. Il capitolo par condicio poi è una legge idiota, la definisce il Cavaliere, sarà abolita con uno dei nostri primi provvedimenti appena saremo al governo. All'Italia non possiamo perdere la nostra compagnia di bandiera, spiega Berlusconi. Confronti TV infine, Berlusconi per sua scelta non andrà in mezz'ora della annunziata, così facendo la trasmissione Rai non potrà ospitare nella puntata successiva Veltroni. E quanto è successo in settimana, parti invertite per Porta a Porta. Così il PDL tappa in Calabria invece per il Partito Democratico, con Veltroni che sferra un duro attacco alla criminalità organizzata, mafia, 'ndrangheta e camorra, dice il segretario del PD, non votino per noi. L'andrangheta, la mafia, la camorra decidano quello che vogliono, decidano solo una cosa, di non votare per il Partito Democratico. Devono sapere che il Partito Democratico, se governerà l'Italia, cercherà di distruggere quei poteri che impediscono al Mezzogiorno di esprimere tutta la sua forza e tutta la sua energia. Il rilancio del Mezzogiorno per Veltroni passa innanzitutto per la legalità e poi più infrastrutture, impresa, dall'accesso al credito d'imposta alla formazione con una scuola d'eccellenza per giovani aspiranti manager. Sono convinto, dice poi Veltroni, che questo paese saggio non farà scelte del passato e attacca la campagna del PDL, è del 94, la nostra è del 2008. So solo una cosa, che sta crescendo una onda di cambiamento, una voglia di serietà e di innovazione, sta crescendo una ripulsa nei confronti di una politica vecchia di 15 anni. Veltroni dà poi il benvenuto al ministro dei trasporti Bianchi, che ha deciso di entrare nel PD. L'ha deciso sulla base della propria coscienza e questa è una ragione in più per la quale lo voglio veramente ringraziare e dire che con lui comincia un percorso di lavoro comune. Quanto al confronto in TV, Veltroni ripete: io sono pronto come e dove si vuole, e al Cavaliere, che diserta la trasmissione dell'annunziata costringendo Veltroni a sua volta a rinunciare, replica Roberto Quillo, vice responsabile informazione: è una ripicca da bambino. Prodi invece fa sapere che rinuncerà alla conferenza stampa finale. Voglio tener fede, dice il Premier, al principio che il capo del governo non dovrebbe chiudere una campagna elettorale dando un indebito vantaggio alla sua parte politica. Uno sguardo alle altre formazioni, dal convegno di Confagricoltura di Taormina, Casini risponde a Berlusconi sul voto utile. Il voto utile e il voto disgiunto sono due bufale che dimostrano solo il fatto che si è ormai capito che questo centro, che è la vera novità della politica italiana, sarà determinante nella politica del Paese e al Senato della Repubblica. Il leader dell'Unione di Centro commenta anche le parole di Bossi, che aveva espresso dubbi su una cordata di imprenditori italiani per Alitalia. Sono dubbi che arrivano in ritardo perché io li ho espressi una settimana fa. E su Alitalia parla anche il leader della sinistra arcobaleno Bertinotti. Per Alitalia non ci sono parole, bisogna andare avanti con una trattativa stringente, se non con Air France, con altri che si facciano avanti, perché questa è una necessità strategica per il paese e per il futuro. Quanto all'informazione in TV, la sinistra arcobaleno denuncia, nei TG, PD e PDL hanno il 60% dello spazio. L'autority intervenga con sanzioni. Quella sulla par condicio è una legge violata, dice il socialista Boselli, e neanche nella Russia di Putin si fa così. E con questo è tutto. Verso il voto termina qui. Un saluto ad Alessandra Schepisi.